Il ministro Filippo Patroni Griffi, che è il ministro della pubblica amministrazione, tenta di spiegare perché il pubblico impiego non è come il resto del mondo del lavoro. Tagliare nel pubblico impiego non si può come nel privato, e questa è la tesi del ministro, perché c'è un concorso di mezzo e siccome c'è il concorso di mezzo, allora i criteri sono diversi per le assunzioni, per i licenziamenti, per tutto, e ci vuole ben altro. Si scrive al partito benaltrista il ministro Patroni Griffi, ci vuole ben altro, ci vuole un dibattito molto ampio sull'importanza del settore pubblico e dei suoi lavoratori, perché il settore pubblico è improntato all'imparzialità, l'articolo 97 della Costituzione, mi scappa da ridere, però questo è sicuramente quello che c'è in Costituzione, e dunque il ministro dice giù le mani dal pubblico impiego. Nel frattempo noi tenteremo di capire com'è che in Gran Bretagna, negli anni del governo Cameron, i pubblici dipendenti diminuiranno di 730.000 unità. Questa è la notizia da cui partiremo. Tenteremo di farci spiegare come funziona lì e come sia possibile che lì avviene, non solo lì, avviene da tante altre parti nel mondo, quando si tratta di tagliare la spesa pubblica in deficit e per non far rincorrere esclusivamente alla spesa da parte delle tasse e le entrate, noi scegliamo l'altra strada. Noi scegliamo la strada per il quale da sempre, da vent'anni, lo abbiamo fatto quando saltò la lira, l'abbiamo fatto per entrare nell'euro, l'abbiamo fatto quando finiamo alle corde in un ring perché siamo insospettati nell'euro, l'abbiamo fatto con la sinistra, l'abbiamo fatto con la destra, l'abbiamo fatto con i tecnici 20 anni fa, torniamo a farlo con i tecnici. Anche oggi la linea è sempre la quella, la spesa corrente sale, oltre il 50% del PIL e la pressione fiscale contributiva sale. Questa è l'unica cosa che sappiamo fare per non tagliare il perimetro pubblico, per non diminuire lo spreco pubblico, per non diminuire le inefficienze pubbliche, per non poter mettere mano alle piante organiche pubbliche.